Bene. La prima cosa è il contesto specifico. Il contesto specifico, cioè il microservizio, sto guardando le slide, deve limitarsi a una responsabilità, cioè deve fare una sola cosa, è quella. Come diceva Marco poco fa, stiamo applicando lo stesso principio di responsabilità che regola una progettazione in classi, in un progetto orientato ad oggetti, cioè stiamo esattamente rifacendo quella cosa lì. Capiamo qual è la responsabilità. Non so, facciamo un esempio per non parlare sempre in astratto, cioè quando io devo modellare, non so, un problema e faccio un manager per faccio un manager per l'attività formativa. Mm-hmm. Questo manager a livello di servizio ha la responsabilità dell'attività formativa, quindi di salvarla, di modificarla, di mostrarne, non so, varie viste, e si fa questa classe qui, che poi internamente magari chiama altri servizi in dipendenza, no? Sì. Però per il livello di presentazione questa è l'API sostanzialmente. Tutte le volte che hai bisogno di informazioni o interagire con l'entità attività formativa passi da questa classe, e qui questo non cambia niente. L'unica cosa però è che mentre progettando una classe all'interno di un monolite, un'applicazione, tu hai di solito sei un po' meno formale nel fare questa cosa, perché tanto sei tu che fai la classe, ma sei anche tu che fai il client, che la consumi. La fai, la consumi. Quindi cosa succede? Magari sei un po' più leggero nella formalizzazione di queste API. Okay. Sì, anche perché magari lo strumento ti dà la possibilità poi eventualmente di raffinare con, esatto, un refactoring rapido, perché magari anche solo, certo, l'IDE ti permette di, certo, modificare semi-automaticamente un'interfaccia, cose così. È così, infatti, e quindi diciamo, come posso dire, sei un po' più sportivo in questa pratica. Invece qua, insomma, siccome queste entità sono meno legate fra loro, sì, bisogna essere un po' più, hai la rete di mezzo. Cioè, attenzione, la modalità di lavoro che stavi suggerendo tu resta sempre valida, eh? Nel senso che magari tu internamente parti con un test, quindi fai il tuo bel test del tuo servizio che ancora non esiste e provi a chiamarlo, e poi produce queste API e le modifichi in modo iterativo, cioè prima la fai piccolina, poi la fai sempre più grande, eccetera. Però hai il vincolo che quando rilascerai questo servizio per la prima volta, l'interfaccia, questa interfaccia deve essere definita e non più modificabile. A meno di non cambiare, sì, di non aumentare la versione, sì, il numero di versioni. Sì, poi infatti parleremo anche di quello dopo. Comunque siamo un po' allargati, perché stiamo parlando del contesto specifico, che è il primo elemento. Quindi cosa bisogna fare? Trovare una responsabilità specifica e poi formalizzarla in un'interfaccia pubblica. Però è molto importante questo discorso della responsabilità specifica, perché molto spesso è frainteso o non capito. Quindi magari andiamo un approfondiamo. Po', sì, approfondiamo. Spesso si chiede, ma come faccio a capire, cioè, quali sono i limiti di questo contesto? Qual è il confine di questo contesto? Allora, ci sono nei manuali, nei libri di testo, trovi tante frasi anche belle, però non so se hanno poi capito se hanno un utilizzo pratico, perché dice bisogna unire le parti che cambiano insieme e tenere separate quelle che cambiano separatamente. Grazie. Ed è vero, è così, oppure raggruppando gli elementi ad alta coesione, chiaramente, anche se sono sparsi. Per esempio, parlavamo prima delle attività formative. Io potrei avere in un progetto normale, tu hai l'attività diciamo il manager a livello di servizio delle attività formative, hai il DAO delle attività formative, hai il controller a livello di presentazione delle attività formative. Hai un pezzo che fa i report delle attività formative, sono sparsi. Quindi tutti quelli che rientrano in questo confine, anche se nella tua applicazione precedente erano sparsi, devono rientrare in quel contesto, cioè non ci deve essere più di un servizio che si occupa delle attività formative, che poi, dicevo, può essere sottospezzato chiaramente, però... Quindi ne facciamo più un discorso dal punto di vista del dominio del problema che, diciamo, di una separazione tecnologica. Ecco, bravo, infatti sì, dopo forse mi sembra di averla messa una slide su questo. Cioè bisogna ragionare, quando cerchiamo di individuare questi contesti dobbiamo ragionare proprio nel dominio del problema. Sì, proprio così, non importa la tecnologia con cui l'hai realizzata, fai finta che hai fatto l'applicazione in Java, ok, però c'è un pezzetto fuori che tu hai scritto in Perl, perché sei ad esempio un Lorenzo Bragaglia, per dire. Giusto per fare un nome di fantasia. Va bene, per dirne uno. Che si occupa però dell'attività formativa. Questo pezzo qui fa parte del tuo servizio, no, cioè del contesto specifico. Sì. E quindi deve rientrare lì. Non ci deve essere, insomma, un altro problema è che non ci deve essere duplicazione, non ci deve essere un altro punto nel sistema a cui io chiedo un'attività formativa. Che abbia competenza sulle attività formative. Esattamente. Per esempio, è proprio così. Quindi adesso la prossima slide è un disegno un po' bruttino fatto da me. Astratto. Ma siamo a livello di arte. Questa è arte. No, vabbè, però quello che voglio dire è, se tu hai un'applicazione, un monolite, dentro ci troverai tantissimi contesti sparsi, specifici. La difficoltà sta nel trovare il confine di questi. Mm-hmm. E riaggregarli in servizi. E questo grafico mostra proprio questo qui. Più interessante è probabilmente la slide, la successiva, la numero 6, che riporta quello che aveva anticipato Marco. In questa slide si vedono i livelli che di solito sono considerati, sono livelli tecnologici di un'applicazione standard come la facciamo noi, cioè che stanno semplicemente applicando il principio delle inversioni delle dipendenze, cioè sotto hai il repository, a volte chiamato anche DAO, questo livello, sopra hai una logica di dominio, poi c'è il servizio, poi c'è la presentazione, insomma, poi potrebbe esserci anche la presentazione lato client con l'applicazione tipo Reactive. Ho detto Reactive invece che Angular, tutti parlano di Angular. Vabbè, uno non deve mai utilizzare questi livelli per separare il contesto, perché il contesto è trasversale, come diceva prima Marco, cioè il contesto è trasversale, cioè un contesto specifico prende un po' di repository, un po' di logica di dominio, un po' di servizi, un po' di presentazione, e tutto questo deve confluire all'interno del servizio, fa parte dello schema del servizio. Questa è una cosa importante. Per esempio, l'altra volta a Marco discutevamo del fatto che il servizio proponesse anche elementi del livello di presentazione. Ci lasciava un po'... cioè ci sembrava strano, sostanzialmente. Sì, assolutamente. Va assolutamente contro a quello che si è detto negli ultimi... Sì. 10 anni, dove invece si era separato tutto. Infatti, nel modo in cui hai appena detto, chiaramente all'interno il servizio continua a essere fatto così, questo è chiaro, non è che stiamo dicendo che all'interno si mescola tutto, cioè all'interno del servizio tu continui a mantenere questa stratificazione, ma il contesto specifico comprende tutti questi livelli sostanzialmente. Sì, adesso questo forse i nostri ascoltatori non riescono a seguirlo perché gli manca la parte che aveva scatenato la discussione. Sì, magari possiamo riportarla velocemente, cioè semplicemente dicevamo che a lato pratico, quindi molti servizi che sono in produzione, microservizi in produzione, hanno delle API per riportare ad esempio il controller Angular, per riportare ad esempio l'HTML, il frammento di HTML che compone il widget da mostrare a video, per esempio Amazon, dicevamo, ha il microservizio che ha il carrello, proprio il simbolino del carrello che si preme quando vuoi andarci dentro. Ok, Dietro c'è un microservizio, dietro quel carrello, che ha delle API che ti forniscono il controller Angular JavaScript e anche l'HTML per disegnarlo. Sì, questa cosa quando me l'hai raccontata la prima volta mi ha lasciato di stucco, perché poi la prima cosa di cui si parla quando vai, diciamo, nei dettagli implementativi di un microservizio è l'interfaccia REST. Sì, da qualche parte ci deve stare l'interfaccia REST. Quindi io ho sempre immaginato un'interfaccia REST come qualcosa che ti fornisce dei dati piuttosto che la possibilità di invocare delle operazioni e ti risponde con dei pezzetti di JSON, che siano l'oggetto di cui hai bisogno, le informazioni di cui hai bisogno, piuttosto che ok, l'operazione che hai chiesto è andata oppure no, l'operazione non è andata per questo o per quello, però è vero, sono, ti ritornano delle informazioni, il dato, diciamo, il dato, il modello esterno in qualche forma, ma non addirittura un controller. Infatti tu invece mi stai dicendo che ci si sta spostando verso dei servizi REST che ti ritorni, che ti forniscano gli elementi per costruire l'interfaccia proprio già con dell'HTML, con del JavaScript. Sì, cioè, per quanto strano, qua stiamo parlando di gruppi che stanno lavorando a microservizi ormai da 6-7 anni, quindi hanno acquisito una certa esperienza. Quello che hanno visto è che se ad esempio il gruppo di Amazon, che è competente per quel cavolo di carrello, no, fa una modifica al carrello, e cosa dovrebbe fare se non, cioè, se non fossero loro a fornirti anche l'interfaccia, dovrebbero andare dal gruppo che fa l'interfaccia e dirgli: guarda, abbiamo fatto una modifica, abbiamo introdotto questa funzionalità nuova per far vedere ad esempio oggetti correlati a quelli che hai messo nel carrello, sostanzialmente. E quindi ci sarebbe questo passaggio, no? Questo palleggio di comunicazione che va contro il contesto specifico, perché il contesto specifico è quello del carrello, non ha alcuna rilevanza se è messo all'interno di un'applicazione o di un telefonino o, che ne so, da un'altra parte. E quindi cosa hanno trovato comodo? Hanno trovato comodo farlo direttamente loro. Lo fanno loro e lo esportano. Poi chiaramente viene magari maneggiato dal gruppo che invece si occupa dell'applicazione, diciamo, del livello di presentazione o mobile o anche web, insomma. Però la ratio, il motivo che c'è dietro è questo qui, perché il movimento dei microservizi, al contrario di SOA, non è nato in modo accademico e poi riversato sulle aziende, è nato come una risposta delle aziende a quel baraccone che era SOA, diciamo, molto più pragmatico, è anche nato molto nei linguaggi di scripting, tant'è che molti dei tool a disposizione ci sono soltanto per linguaggi di scripting. Per esempio per i test vedremo che molte cose sono per Rails, sostanzialmente, che si usano poi anche in Java, ma insomma sono fatte proprio per Rails. E allora abbiamo fatto una buona deviazione. Sì, torniamo qui. Stavamo parlando del contesto specifico. Stiamo per concludere il contesto specifico. L'ultima cosa è questa. Quindi abbiamo detto, c'è un contesto specifico, esporta fuori un modello esterno. Internamente è diviso sempre per i layer che conosciamo, ma il contesto specifico li abbraccia tutti. Questo però non significa che non abbia delle dipendenze, no? Cioè che ad esempio io abbia diviso un contesto specifico che era l'attività formativa, diceva come esempio. E poi a un certo punto mi rendo conto che potrei ulteriormente scomporlo. Per esempio sotto c'è un elemento della persistenza che magari mi conviene estrarre perché potrebbe servire anche a un altro servizio. Insomma, mi rendo conto che posso ulteriormente scomporlo. Avviso che non bisogna avere questa esigenza all'inizio. Cioè bisogna partire con calma, come facevo l'esempio di real estate, quindi partiamo con calma. Però successivamente li puoi riscomporre, no? E a questo punto hai due modalità: in una si cambia il client e in una non si cambiano i client. Se non cambi i client, quelli continuano a comunicare col tuo primo servizio e questo in cascata con quelli che hai scomposto. Okay. C'è un grafico, vedi, questi continuano a chiamare il primo e lui chiama gli altri. Oppure semplicemente puoi fare in modo che scusa, mi sfugge quel BC slide 8. È il binding context. Allora, vedi, okay. Questo è un binding context che all'inizio incorporava due servizi, Sigma 1 e Sigma 2, ed esponeva un'interfaccia, quel bel pallino. Come si può scomporre? Il primo modo è quello che il primo servizio continua a esporre la sua interfaccia e chiama poi gli altri. Lui internamente... Il client non cambia in questo caso. Oppure si può fare come nell'ultima immagine sulla destra, in cui Sigma 1 e Sigma 2 espongono la loro interfaccia che è chiamata proprio dai client. Quindi in questo caso la modifica è più ampia. Ok, richiede anche un aggiornamento. Sì. Ora, al di là del modo con cui venga fatta, mi interessava qui soltanto ricordare che il binding context, cioè il contesto specifico iniziale, non è detto che sia definitivo. Non è definitivo, bisogna procedere come sempre in informatica, no? Che se devi fare una macchina, inizi facendo un triciclo, poi fai una bicicletta, poi un motorino e poi ti avvicini alla macchina, cioè sostanzialmente non bisogna aver paura di cioè se procedi sempre per iterazione, in cui sei anche più bravo tu a capire come smontarli, sarebbe addirittura un errore fare il contrario. Sì, potremmo stare anni a progettare un ambiente dove ogni servizio è piccolissimo, che richiama altri, una nuvola di servizi, ma l'atto pratico e quando saremo pronti per sviluppare ci sarebbe già la prossima moda. Infatti